Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. L'ONU non è in grado di far rispettare le più elementari leggi, i più elementari diritti, a cominciare da quelli dell'uomo. Convenzioni, risoluzioni, bla bla bla, tutte chiacchiere. Mercoledì ho visto il signor Ahmadinejad, presidente e dittatore dell'Iran, esporre il suo discorso al celebre microfono delle Nazioni Unite. Molti dei presenti si sono allontanati dall'aula, umiliati dalle esternazioni del politico di Teheran, che vorrebbe cancellare Israele dalla mappa del mondo. Voglio qui ricordare che in tempi recenti una donna incinta è stata impiccata in Iran per aver distribuito volantini contro il governo. Esiste un filmato su internet. Altre impiccagioni hanno riguardato giovani omosessuali. Gli oppositori vengono incarcerati. In quel paese molti diritti umani sono quotidianamente calpestati sotto gli occhi del mondo. Per questa ragione un'ONU degna di essere rispettata non avrebbe nemmeno dovuto lasciare entrare Ahmadinejad al Palazzo di Vetro. Altri dittatori hanno rubato la scena alle democrazie. Gheddafi, anziché i 15 minuti previsti, si è preso la parola per un'ora e mezza. I dittatori non solo non dovrebbero essere considerati dalla comunità internazionale, ma dovrebbero anche essere combattuti e rimossi a calci nel sedere. Marco. Morti di eroi. Ancora una volta si muore in un paese in guerra. Si muore per ideali. Libertà, patria, democrazia. Persone giovani che come una folgore volevano sconfiggere la violenza e l'arroganza degli stolti. Oggi uomini si sono offerti al patibolo per ideali, per soldi, per necessità, per un lavoro. Oggi sui ponteggi, sulle strade, nelle fabbriche o cantieri di ogni sorta, sono morti per una guerra non dichiarata, non riconosciuta come l'altra, ma identica all'altra, se non peggio dell'altra, per le loro famiglie, i loro figli, per un tozzo di pane. Macinati dalla società come se tutto questo fosse dovuto, fosse senza valore e ideologia, senza tricolore sulle bare, ma solo con un drappo di lacrime e disperazione di chi resta nella solitudine, emarginazione. Ma comunque, dopo le commemorazioni di Stato e sfilate in pompa magna di chi ti ha mandato lì a morire, rimangono solo gli occhi di un bambino con le sue lacrime, le sue domande senza risposta, perché risposta a tutto questo non c'è. Se non menzogne di gente che pensa che basti una manciata di moralità patriottica. Lettera firmata. Caro direttore, non capisco. L'attuale manovra economica è fatta prevalentemente per garantire l'aumento contrattuale ai dipendenti della pubblica amministrazione, circa 3,5 milioni di persone. Ma chi ha detto che i lavoratori che hanno la garanzia del posto di lavoro debbano avere aumenti generalizzati di retribuzione? Non sarebbe stato meglio mettere a disposizione una piccola somma da utilizzare per la meritocrazia? Se si vuole ridurre la spesa pubblica, bisogna partire anche dalle retribuzioni dei dipendenti, tenuto anche conto che fattori esterni hanno contenuto l'inflazione e ridotto alcune spese connesse con la bolletta energetica. Non sarebbe meglio dedicare le somme stanziate a chi perde il lavoro e ha necessità di sostenere il proprio reddito o riconvertire la propria attività? Sarebbe un bel passo avanti. Agostino. Ho sentito la lettera del collega ascoltatore neolaureato che diceva di aver ricevuto un pugno nello stomaco ascoltando il figlio del collega commercialista che vantava la possibilità di poter presentare un reddito da barbone, quello del padre, e di pagare di conseguenza una retta molto bassa per l'iscrizione all'università. Sono anch'io commercialista. Lavoro con società e se voglio incassare devo emettere fattura, punto e basta. Niente evasione. Aggiungo, niente sabati liberi e niente TFR. E per quanto riguarda l'evasione, è sicuro il collega ascoltatore che quando si alza dal tavolino del bar riceve lo scontrino? Sempre? E quando chiama l'idraulico, il falegname, l'elettricista o quando fa la spesa al mercato, riceve un benché minimo documento fiscale? Prenda coraggio e mi risponda. Oltre a farci venire il mal di stomaco, proviamo a fare qualcosa perché l'evasione sia molto, molto minore. Paolo. Gentile direttore, io vivo all'estero e quindi posso seguire la stampa solo via internet. È comprensibile che i giornali online siano in formato ridotto, altrimenti perderebbero anche quelle poche vendite in edicola. Ma non crede che la causa di ciò sia dei giornalisti? Quanto leggo online non mi dà alcunché in più di informazione di quanto non riceva, ad esempio, da GR24. A volte il testo delle notizie è esattamente lo stesso, da cui si evince che è un copia e incolla delle agenzie. E, allora, serve un giornalista per fare questo? Non so quale guru della stampa americana disse che un buon giornalista deve seguire la regola delle 5 V. What, who, when, where, why. Ho letto su un giornale online la notizia della recita della Moratti interrotta dagli studenti. Il giornalista ha dato per scontato che il pubblico conoscesse i retroscena artistici del sindaco, ma non so quanti potessero esserne a conoscenza. Se dovessi dare un voto all'articolo in base alla regola di cui sopra, sarebbe un bel 4-. Maurizio. Caro direttore, il religioso Bagnasco ha esortato i politici cattolici a legiferare secondo coscienza, cioè seguendo le indicazioni di Santa Romana Chiesa. Lo stesso pontefice, tempo fa, aveva fatto l'identica esortazione ai farmacisti, in parole povere, quella di non vendere farmaci che la Chiesa non approva. All'uopo verrà forse compilato un indice dei farmaci contrari alla fede? Se lo Stato non sarà veramente laico e insensibile a tutte le teorie metafisiche, fra non molti lustri ci saranno imam che esorteranno i politici islamici a legiferare secondo coscienza? Un ipotetico politico testimone di Geova presenterà un disegno di legge contro le trasfusioni e qualche parlamentare di origine cinese il libero commercio della carne di cane. La mia non è fantapolitica, perché è ovvio che in una futura Italia multietnica e multireligiosa, l'Italia che troppi invocano, ogni etnia avrà una proporzionale rappresentanza parlamentare e probabilmente l'etnia italiana dovrà accettare, per le inevitabili operazioni di scambi parlamentari, leggi che non sono della propria tradizione culturale. La saluto sperando, un giorno non molto lontano, di non doverci incontrare di notte, impauriti sotto un ponte a mangiare un panino con la mortadella di contrabbando. Edoardo. Caro Edoardo, lei afferma che il rispondere alla propria coscienza equivale automaticamente e direttamente al prendere ordini dalla Chiesa o dalle autorità islamiche o dai testimoni di Geova. Le dico chiaramente che non condivido la sua idea di coscienza e ho invece una grande fiducia nella responsabilità dei nostri parlamentari, ma soprattutto non condivido il fatto che le leggi dello Stato debbano rispondere più alle sue o alle mie idee che a quelle che si formano nel processo di legislazione democratica. L'Italia è certamente un paese laico, ma ancor prima che laico è un paese democratico, come è scritto nel primo articolo della Costituzione. Questo vuol dire che la sovranità, cioè la possibilità e il dovere di fare le leggi che regolano il vivere civile, appartiene alla libera scelta della maggioranza dei cittadini, con l'obiettivo di aumentare la libertà di ciascuno e di offrire a tutti il più alto livello di servizi. Lo Stato democratico è uno Stato che rispetta la libertà di tutti e la coscienza di ciascuno. È uno Stato in cui i valori non derivano da un razionalismo astratto, ma da una concreta partecipazione dei cittadini, delle famiglie, dei gruppi sociali. Lei, caro Edoardo, ha un'idea di uno Stato in cui abbondano divieti e limitazioni. Io penso che lo Stato debba offrire a ciascuno la possibilità di essere più libero, garantendo sicurezza e giustizia, ma anche libertà di educazione e libertà di esprimere i valori della vita e della dignità di ogni persona. Egregio direttore, qualche decennio fa la Francia era afflitta da una grave denatalità. Per questo i politici hanno varato leggi per una maggiore tutela della maternità, asili nido ovunque con apertura di 12 ore, congrui assegni familiari, detassazioni per figli a carico, possibilità di scaricare dalle tasse perfino l'acquisto dei pannolini. L'anno scorso la Francia ha registrato 900.000 nascite. La nostra nomenclatura, purtroppo, da sempre concentrata nel teatrino politico e disinteressata ai bisogni della plebe, ha scelto la strada più facile, la meno responsabile. Mancano le pedine bianche? Bene, le sostituiamo con le nere. Un calcolo cinico ed irresponsabile, perché non considera minimamente l'impatto sociale, identitario o occupazionale di ordine pubblico di tale menefreghismo. Insensibili perfino ai grossi problemi che altri paesi europei devono affrontare con gli immigrati, specie con quelle etnie culturalmente ferme al Medioevo. Per mascherare tanta ignavia, con l'appoggio di certa intelligenza, ci condiscono con discorsi tipo «l'obbligo di accoglierli è una questione di umanità». Anche l'ONU ci sgrida. Il Nord-Est ha bisogno di 100 milioni di immigrati e via dicendo. Il mio vaticinio è che da così tanta irresponsabilità dobbiamo per forza aspettarci tempi molto, molto bui. Edoardo. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.